البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. لا لا لا لا لا لا لا. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا محتل اطلع in diretta da Gaza. Vi facciamo ascoltare questa musica per dirvi che noi siamo ancora qui nonostante il coronavirus. La nostra trasmissione continua alla grande, con sempre più informazioni, più notizie che non troverete da nessun'altra parte, che i media non vi danno. E allora, allora, buongiorno Palestina! Passiamo ora alla rassegna stampa. Gaza, assassinare bambini per divertimento. È il titolo di un articolo su Invicta Palestina del 12 marzo scorso. Su questo macabro divertimento riferirà in questa trasmissione Piero, con altre citazioni che riprendono l'indignato articolo di Gideon Levy di cui riferimmo nella puntata scorsa. Levy commentava le interviste che erano state rilasciate da parte di cecchini che sparano alle ginocchia di dimostranti disarmati nella striscia di Gaza durante la grande marcia del ritorno, menomandoli così per la vita. In questa puntata si tratta delle interviste vere e proprie, le potete leggere poi su rassegna stampa di Amicizia Italo-Palestinese, e da quel che sentirete e leggerete poi viene descritto come la menomazione dei giovani palestinesi venga organizzata in modo che il cecchino che è riuscito a rendere disabile un giovane abbia un supervisore, risponda cioè alle aspettative di un pubblico in attesa della sua performance, come vi sia tutta una predisposizione del massacro. E ciò fa sì che il cecchino, che è poi un giovane ventenne, dopo aver reso disabile un altro giovane, però palestinese, si senta sollevato da un'incombenza e soddisfatto del suo dovere compiuto. Si tratta di una procedura che non è solo assolutoria dell'orrore, ma addirittura meritoria. Qui il pensiero non può che andare ad un termine che fu coniato da Hannah Arendt, filosofa ebrea, tedesca, ma non sionista, quando assistette al processo del nazista Eichmann, uno dei principali esecutori della Shoah. Nel processo il poverino spiegava come lui fosse solo parte di un ingranaggio al quale non poteva che consentire. Il termine coniato dall'Arendt fu allora la banalità del male, per far capire la semplicità ed il funzionamento inerziale della macchina dello sterminio nazista. Nell'ascoltare le interviste dei cecchini israeliani e del modo in cui operano, quel termine torna alla mente. È la banalità del male che si riaffaccia. È la banalità del male che oggi trova nuova legittimazione. Vivacità della cultura, delle risorse della Palestina e dei palestinesi. Ce lo ricorda un articolo sulla rassegna stampa citata dal titolo Api, erbe e oli essenziali, una rete tra Italia e Palestina. Si parla di un progetto che dura da 2 anni, che parla dei colori dei campi di a Rabeh e Jabad, degli odori della menta e della lavanda piantata dalle donne di Allah. Si tratta di una vera e propria rete tra Italia e Palestina, creata negli ultimi 2 anni con un progetto che raggruppa 10 enti e associazioni italiane e palestinesi per prodotti destinati al commercio eco e solidale. La collaborazione tra Alto Mercato e AWA è iniziata infatti nel 2008 con l'importazione di materia prima da utilizzare in alcune produzioni per la cosmesi. Dopo si è avviato il progetto di creazione di una filiera dei saponi artigianali all'olio d'oliva. L'acquisto di uno di questi saponi è un gesto concreto di appoggio alle finalità e attività di AWA. La terra, gli ulivi, rappresentano una garanzia di sopravvivenza in Palestina. Se quella stessa terra non viene dichiarata incolta, resta alle famiglie che la abitano. Forse così si riuscirà a rendere stabilmente pacifica una zona martoriata e ancora ostinatamente divisa, rendendola di nuovo terreno di fertile serenità. Un altro articolo sulla stessa rassegna stampa è «Lottare per l'acqua in Palestina, dagli accordi di Oslo ad oggi». A Oslo l'unica cosa che fu introdotta fu l'istituzione di una cosiddetta autorità palestinese per l'acqua, ma senza che le venisse dato alcun diritto ad un ulteriore accesso all'acqua. Con gli accordi che erano stati previsti incrementi annuali delle forniture ai palestinesi. Oggi non solo sono stati negati enormemente gli obiettivi minimi degli accordi di Oslo, ma anche in termini assoluti i palestinesi ricevono assai meno acqua rispetto a prima nell'accordo di Oslo. Vi anticipo una notizia della prossima settimana. Einstein, Hannah Arendt, Noam Chomsky, Naomi Klein, antisemiti? Essendo stati antisionisti, questi famosi ebrei non potrebbero oggi, secondo la conferenza dei rettori tedeschi, fare discorsi, insegnare o fare ricerche alle università tedesche. Perché? Perché la HRK ha sposato la definizione moderna, inesatta e molto discussa dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che definisce la critica ad Israele come espressione di antisemitismo e che viene usato in tutto il mondo contro chi critica la politica di Israele. L'intero costrutto di antisemitismo contro Israele è sbagliato. E l'applicazione alle università lede il diritto di espressione e, dice ad esempio Rolf Berlinger, professore ebraico, ex membro del Consiglio degli Ebrei Tedeschi e copromotore della seguente petizione. Quindi tutto questo per dirvi che sta uscendo, già uscita, una petizione contro i professori degli Atenei Tedeschi che hanno deciso di non criticare Israele appunto per questa nuova applicazione inesatta e molto discussa che bolla appunto di antisemitismo chi critica la politica di Israele. Sul blog il collegamento per poter firmare la petizione. Facciamo ora un piccolo stacco musicale per poi iniziare la nostra trasmissione con l'intervento di Piero che ci parlerà dei cecchini. Thank you. questo periodo difficile a causa del coronavirus dobbiamo rimanere chiusi in casa, restare in casa, rinunciare ad avvicinare le persone a meno di un metro di distanza, rinunciare alle strette di mano, agli abbracci, lavarsi continuamente le mani. Quindi sono saltate tutte le nostre abitudini e spesso sono saltate anche molte nostre certezze. Però, malgrado questo, i nostri amici palestinesi, che pure subiscono una situazione difficile, difficilissima, per la loro sopravvivenza, per la loro vita, indipendentemente dal coronavirus, ma a causa di un tumore molto più grave, molto più letale, che è quello dell'occupazione israeliana, malgrado tutto ciò, ci mandano gli auguri. Ci mandano gli auguri di solidarietà e di stimolo a lottare contro questo virus, e ci mandano le immagini con le bandiere italiane e palestinesi insieme. Noi siamo grati a questi amici palestinesi e, approfittando di questo periodo, che è un periodo di solitudine, sì, di chiusura in casa, però anche di molte riflessioni, vogliamo raccontare alcune situazioni che sono avvenute e continuano ad avvenire laggiù in Palestina, e che dimostrano quanto grave e quanto degradata è la situazione nello Stato di Israele ormai, dove la maggior parte degli israeliani considera la politica del governo Netanyahu una politica giusta, proprio perché tende a impadronirsi dell'intero territorio palestinese per ricreare la grande Israele di biblica memoria. A supporto di questo voglio parlarvi, voglio citare due casi. Uno che riguarda l'annuncio del portavoce dell'IDF, l'IDF è l'esercito popolare israeliano, riportato da Gideon Levi, dal giornalista Gideon Levi di Haaretz, e l'altro è un articolo di Haaretz, Premium Magazine, sulle dichiarazioni e sulle confessioni di sei cecchini dell'esercito israeliano. E, prima di questo, e per dare un quadro generale della situazione, voglio tornare indietro di due anni, e in particolare ritornare al marzo del 2018, quando sul confine tra Israele e la striscia di Gaza sono iniziate le grandi dimostrazioni di massa, chiamate poi la marcia del ritorno. Perché in marzo del 2018? Perché in quel mese lì, nel 1976, i palestinesi fecero una grande manifestazione contro l'esproprio delle loro terre. Infatti quel giorno fu chiamato il giorno della terra, e naturalmente queste manifestazioni furono represse nel sangue dalle forze israeliane, e queste manifestazioni sono state riprese appunto nel marzo del 2018 e sono continuate ogni settimana fino allo scorso gennaio. L'ONU, le Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, hanno dichiarato che gli attacchi, diciamo, dell'esercito israeliano, e quindi la reazione dell'esercito israeliano contro i manifestanti, sono costati la vita a oltre 200, circa 215 dimostranti, manifestanti, che dimostravano pacificamente lungo e vicino ai confini della striscia con Israele, e quasi 8.000 invece sono stati feriti da veri proiettili. Ecco. E, malgrado questo, lungo questo confine, le manifestazioni si sono protratte, sono continuate ininterrottamente per circa 2 anni, finché poi si è deciso di ridurre la frequenza a una volta al mese. E, malgrado questo, malgrado il violento rituale di tutti i venerdì pomeriggio in cui decine di persone venivano fatte oggetto di spari da parte dei cecchini, e questo non ha sconvolto, anzi ha provocato uno scarsissimo interesse nell'opinione pubblica israeliana, che invece chiedeva a gran voce che l'azione dei soldati fosse un'azione ancora più drastica, ancora più violenta, per mettere fine alle proteste dei terroristi palestinesi. Ecco, detto questo, fatta questa premessa, questo recentissimo pezzo di storia ha richiesto, per essere dimostrato, la testimonianza di alcuni cecchini. Sono stati contattati decine di cecchini, da Gideon Levi, che è stato il protagonista di questo fatto, e soltanto 6 hanno accettato di essere intervistati e di descrivere quanto sembrasse loro la situazione attraverso il mirino dei loro fucili. Ecco, i nomi sono stati modificati, sono stati cambiati, e la loro testimonianza non è per rompere il silenzio, come hanno fatto alcuni militari, ex militari israeliani, di Breaking the Silence, per denunciare i crimini dell'esercito nei territori palestinesi occupati, oppure per dichiarare pentimento sulle proprie azioni, ma invece solo per raccontare quello che è successo dal loro punto di vista. Anzi, nel caso di uno di loro, per esempio, che si chiamerà Eden, il fatto che abbia anche ucciso un manifestante per errore non lo sconvolge. Cosa ha detto infatti a questo proposito? Penso che ero dalla parte giusta e che ho fatto la cosa giusta, perché se non fosse stato per noi, i terroristi avrebbero cercato di attraversare la barriera. E quindi io sono lì per un motivo, per impedire questo. Il cecchino Eden afferma di aver battuto il record di ginocchia nella manifestazione che è avvenuta il giorno in cui è stata inaugurata la nuova ambasciata degli Stati Uniti d'America a Gerusalemme, cioè il 14 maggio 2018. Il record di ginocchia è stato fatto in 2, perché i cecchini lavorano di regola in coppia, insieme a un localizzatore. Chi è un localizzatore? Il localizzatore è per formazione un cecchino, però il suo compito è quello di dare ai suoi colleghi dei dati precisi, di fornire dei dati precisi come la distanza dal bersaglio, la direzione del vento, il punto preciso dove si trova il bersaglio, eccetera. Ecco alcune dichiarazioni di Eden. Quel giorno il nostro collega ha raggiunto il maggior numero di colpi, 42 in totale. Il mio localizzatore non avrebbe dovuto sparare, ma gli ho concesso una pausa perché stavamo arrivando alla fine del nostro turno e non aveva ancora colpito neanche un ginocchio. Alla fine te ne vuoi andare con la sensazione che hai fatto qualcosa, che non sei un cecchino solo durante l'addestramento. Così, dopo che ho sparato qualche colpo, gli ho suggerito di darci il cambio. Direi, mi sembra che abbia colpito circa 28 ginocchia. Ecco, questa è la dichiarazione di Eden, e che poi ricorda chiaramente qual è stato il suo primo ginocchio, no? Il suo bersaglio era un manifestante vicino a un filo spinato a circa 20 metri di distanza. Ecco cosa dice Ede. In quel periodo, cioè all'inizio delle proteste, eri autorizzata a sparare a uno dei principali incitatori delle proteste solo se stava in piedi immobile, afferma Ede. Ciò significa che, anche se stava andando in giro tranquillamente, era proibito sparargli, quindi non avremmo mancato il bersaglio e sprecato munizioni. Comunque questo incitatore è dunque è sul filo spinato. Io ho l'arma rivolta verso la barriera e non c'è l'autorizzazione a aprire il fuoco. A un certo punto lui sta di fronte a me, mi guarda, mi provoca, mi dà un'occhiata come dire «vediamo se ci provi». Allora arriva l'autorizzazione. In piedi sopra me c'è il comandante del battaglione, alla mia sinistra c'è il suo vice, a destra il comandante della compagnia, tanti soldati tutti intorno a me, insieme alle loro mogli, il mondo intero sta osservando il mio primo tiro. È tutto molto stressante. Ricordo la vista del ginocchio nel mirino e poi lo vedo scoppiare. Ecco poi la dichiarazione di Roy, che ha fatto il servizio militare come cecchino fino al suo congedo un anno e mezzo fa, e dice che il colpo che ricorda meglio, più vividamente, è quello che ha attirato la maggiore attenzione degli spettatori. Ecco la sua dichiarazione. C'era pressione perché il comandante di battaglione era sul posto e tutti si occupavano di noi. C'era un palestinese che sembrava avere circa 20 anni, che non smetteva di andare in giro. Maglietta rosa e pantaloni grigi. Quello che fanno è correre continuamente e poi arrivare sul filo spinato. E lui era veramente bravo a farlo. In quella situazione puoi ucciderlo oppure puoi colpire qualcuno dietro di lui. Ricordo chiaramente di aver temuto di mancare la sua gamba e poi di essermi sentito sollevato per aver centrato il bersaglio. Ecco, questa è la dichiarazione di Roy. È un sollievo come quello di Roy, è anche quello che ha provato Itai, che è un ebreo ultraortodosso. Era un cecchino del battaglione Yehuda, che è composto da tutti ultraortodossi. Ecco la sua dichiarazione. Ho visto un giovane che stava per dar fuoco a una bottiglia Molotov. In un caso simile non fai calcoli. Ho parlato alla radio, ho descritto il bersaglio, ho avuto l'autorizzazione. La pressione è assurda. Tutto quello che hai imparato e per cui sei stato addestrato è riassunto in un momento. Ti concentri, ti ricordi di prendere il respiro e poi, boom, ho sparato al ginocchio e lui è caduto. Mi sono accertato che tutto fosse a posto, di aver sparato nel posto giusto. Il risultato di tutto questo è che circa il 60% dei feriti sono feriti gambizzati, che hanno subito cioè una dei colpi alle gambe, alle ginocchia, con proiettili a frammentazione che hanno lo scopo e il risultato di renderli storpi per tutta la loro vita. Ecco, dopo la scommessa a chi colpiva più ginocchia e addirittura il vanto di aver colpito in un giorno solo a Gaza 42 ginocchia da parte dei cecchini israeliani, cose addirittura abnormi, al di fuori di ogni comprensione umana, sentiamo ora che cosa ha annunciato il portavoce dell'esercito israeliano, dell'IDF, ripreso da Gideon Levi. I soldati israeliani sparano ai bambini, a volte li feriscono, a volte li uccidono, a volte i bambini restano clinicamente morti, a volte disabili. A volte i bambini hanno lanciato pietre contro i soldati o un cocktail di Molotov. A volte finiscono per caso nel mezzo di uno scontro. Quasi mai mettono in pericolo la vita dei soldati. E ancora, a volte i soldati sparano ai bambini intenzionalmente, a volte per errore. A volte mirano alla testa o alla parte superiore del corpo, a volte sparano in aria e colpiscono i bambini alla testa. E questo succede quando un corpo è piccolo. A volte i soldati sparano con l'intento di uccidere, a volte di punire. A volte usano proiettili regolari, a volte proiettili rivestiti di gomma, a volte sparano da molto lontano, a volte in un'imboscata, a volte a distanza ravvicinata. A volte sparano per paura, per rabbia, per frustrazione e per la sensazione di non avere altra opzione. A volte per una perdita di controllo, a volte a sangue freddo. I soldati non vedono mai le loro vittime dopo averle colpite. Se vedessero quello che hanno causato, forse potrebbero anche smettere di sparare. Allora, i soldati israeliani sono autorizzati a sparare ai bambini. Nessuno li punisce per aver sparato ai bambini. Quando un bambino palestinese viene ucciso, non è una notizia. Non c'è differenza tra il sangue di un bambino palestinese e il sangue di un adulto palestinese. Hanno entrambi poco valore. Quando un bambino ebreo viene ferito, tutto Israele trema. Quando un bambino palestinese viene ferito, Israele sbadiglia. Questo è ciò che dice Gideon Levi. E troverà sempre, sempre una giustificazione per i soldati che sparano ai bambini palestinesi. Non troverà mai, mai una giustificazione per i bambini che lanciano pietre contro i soldati che fanno irruzione nel loro villaggio. Ecco cosa è successo a un bambino di nome Abd el-Rahman Shatawi, che è da 6 mesi nell'ospedale di riabilitazione di Beit Jala. Da 10 giorni Mohamed Shatawi, il suo parente, è ricoverato alla Dassa University Hospital a Gerusalemme. Tutte e due provengono dal villaggio di Kaddum in Cisgiordania. I soldati israeliani hanno sparato a tutte e due alla testa. Ad Abd el-Rahman hanno sparato da una grande distanza con proiettili regolari mentre si trovava all'ingresso della casa di un amico. A Mohamed hanno sparato un proiettile rivestito di gomma da una collina vicina mentre lui cercava di nascondersi lungo le pendici di quella stessa collina. L'esercito ha dichiarato che aveva incendiato una gomma. Abd el-Rahman ha 10 anni e sembra molto piccolo per l'età che ha. Mohamed ne ha 14, ma dimostra più anni di quelli che ha. Questi sono tutti e due bambini della realtà palestinese, la cui vita è sospesa. Non si sa se moriranno o se continueranno a vivere. Ecco che cosa, dopo che Abd el-Rahman fu colpito, che cosa ha detto l'ufficio del portavoce dell'esercito. Durante un incidente è stato ferito un minore palestinese. Dopo invece che venne colpito Mohamed, il solito portavoce dichiarò: «C'è una denuncia relativa a un palestinese che è stato ferito da un proiettile di gomma». L'ufficio ha familiarità con queste denunce, no? Il portavoce dell'esercito è la voce delle forze di difesa israeliane. Siccome l'IDF è un esercito popolare, il portavoce dell'IDF parla anche per Israele. Dunque, tutto ciò cosa vuol dire? Che la disumanizzazione dei palestinesi mi pare che abbia raggiunto i portavoci dell'IDF. Persino i bambini non suscitano più sentimenti umani come il dispiacere o la misericordia. Certamente questo non avviene nell'esercito di Israele. Che cosa posso dire? Ma posso dire solo che l'ufficio del portavoce IDF fa certamente bene il suo lavoro, è pagato per questo. ma le sue dichiarazioni riflettono lo spirito del tempo e lo spirito anche del luogo, cioè di Israele. Lì non c'è più spazio per esprimere nessun rimpianto per aver sparato a dei bambini in testa, perché questi non sono bambini normali, sono solo palestinesi. Non c'è spazio per la misericordia, per le scuse, un'indagine o per una punizione. Certamente non c'è spazio per alcun risarcimento. Sparare a un bambino palestinese è ormai considerato meno grave rispetto che sparare a un cane randagio, per esempio, no? Per il quale c'è ancora una possibilità che qualcuno indagherà. E per dimostrare che questo atteggiamento e questi pensieri, questi convincimenti non sono propri dell'esercito israeliano, ma sono ampiamente diffusi nella società, nella stessa società israeliana, e allora vi faccio un riferimento e vi cito un'altra dichiarazione che viene da un articolo sempre di Gideon Levi, che commenta alcuni articoli di Nave Dromi. Chi è Nave Dromi? Nave Dromi è una dichiarata fascista ultranazionalista che crede che gli ebrei meritino tutto e i palestinesi niente, che i diritti umani siano per gli stupidi e che l'intera terra sia sua, cioè sia di Israele. Ecco, lei è, fa parte di un'associazione, di un gruppo che si chiama Israel Victory Project, che ha difeso dei cartelloni pubblicitari che definire oscene è un eufemismo, di questa organizzazione, che raffigurano la desiderata vittoria israeliana sulla leadership palestinese e in particolare su Abu Mazen e su Ismail Haniyeh di Hamas, capo dell'ufficio politico di Hamas, che sono legati e bendati mentre la loro terra è in fiamme. Ecco. E Israele si comporta secondo i valori espressi da lei, da questa Dromi, più di quanto non faccia con qualsiasi altro valore. Quindi questo è puramente fascismo. Ecco, io ritengo che questo si possa chiamare fascismo. Il fatto che il sindaco di Tel Aviv, Ron Huldai, abbia ordinato la rimozione di questi manifesti non significa che sia stato cancellato il messaggio, va bene? Perché questo messaggio è iscritto nella società israeliana. D'altra parte bisogna anche dire che il sindaco ha preso questa iniziativa perché Tel Aviv è visitata da tantissimi turisti in questo periodo. Non è una buona propaganda far vedere che cosa pensa in realtà il governo israeliano della parte non ebrea di Israele, cioè dei palestinesi. Ecco, questo è il motivo per cui sono stati rimossi i manifesti. Ecco, quindi Nave Dromi poi nel suo articolo affronta l'argomento principale, che è il cuore del sionismo, cioè le rivendicazioni palestinesi sulla proprietà della terra sono prive di fondamento e ingiustificate. Ecco cosa afferma lei, no? Un popolo senza terra giunse in una terra senza popolo. Cosa hanno a che fare questi nomadi, finiti qui per caso, con la nostra terra che è solo nostra, è tutta nostra? Questa non è l'opinione di una minoranza. Se lo fosse stata, lo Stato non sarebbe mai stato istituito così com'è. Su quale base hanno diritti qui i palestinesi? Perché vivevano qui da centinaia d'anni? E continua poi, perché erano la stragrande maggioranza prima che gli ebrei arrivassero a frotte, la maggior parte fuggendo dall'orrore europeo, perché anche oggi sono metà della popolazione della terra tra il fiume e il mare, la metà della quale nativa, radicata, non immigrata, ma non hanno ricevuto questi nomadi una promessa divina e la Bibbia non dice una parola sui loro diritti, quindi essi non esistono. Le storie bibliche forniscono più diritti di proprietà rispetto a qualsiasi atto di proprietà ottomana. In parole povere, cosa vuol dire la nave Dromi? Vuol dire che i palestinesi non sono ebrei e quindi non hanno diritti. Ecco, tutto lì. Occupazione è una parola che non esiste nel dizionario israeliano di Dromi. I palestinesi sono spazzatura. È mai successo nella storia che un popolo decidesse di non combattere per la sua libertà, per i suoi diritti nazionali contro il suo occupante? Ecco, tutto ciò, ecco, questo è quello che pensavano i fondatori dello Stato israeliano ed è quello che pensa, oltre a Dromi, anche la maggior parte degli israeliani di oggi. Concludiamo questa trasmissione ricordando che Palestina non vuol dire solo immenso dolore, tristezza, ma soprattutto volontà di un popolo che non si arrende, un popolo capace di cultura, di fantasia, di allegria, nonostante tutto. Palestina sono anche gli odori della menta e della lavanda piantate dalle donne di Allah. Questo ci deve far incoraggiare alla solidarietà con la parte migliore del mondo. Vi ringraziamo dunque del vostro ascolto e vi lasciamo dandoci appuntamento a mercoledì prossimo. Inshallah. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.